non sarà. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, no, no, no, no, no, non sarà. Questo amore è fatto solo di poesia, tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà, domani e sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, no, non sarà un'avventura. Non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà, domani e sempre, sempre vivrà, perché io sono innamorato, e sempre di più. In fondo all'anima ci sei per sempre tu.